sotto Barberone, in un posto in cui si avvera la profezia bandiera, chi non beve il vino nero che si fa chiamar Barbera, comincia la serata all'insegna di chi sclera, si può salvare soltanto chi ha coraggio altrettanto, liberi il nostro torchetti e di arancido satato, nelle vene si dirige e l'effetto si propaga sulla chair, che comincia a fare passi di breakdance, nella nostra fottuta serata, la fottuta serata fottuta. Ma per me non è il suo nome, per la crew lui rimane clima di tensione, lanciati, piegati, fulminati, entriamo nella casa con gli occhi allucinati, lo stile si esalta col suono che incalza, piegando il ginocchio stai fottuta, mette all'occhio alla I che si posta nella pista, si getta nella mischia il gabiloso number one, il maglione è suo fan, si saluta le playtippe, si salutano i b-boy, ma il pubblico zero lo caghiamo solo noi, nella nostra fottuta serata strafottuta, serata fottuta. Yeah.